Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ed è giovedì mattina, ore 7, qui su www.runtimeradio.it. Runtime Radio, la vostra radio un po' geek, tanto geek, troppo geek, forse anche un po' nerd. Buongiorno a tutti da me, Simone Pizzi, questo è Buongiorno un cazzo, come avrete sicuramente capito e come è stato annunciato ieri sera anche da Walter Sbano nelle orazioni della sera, che va in onda il martedì, mercoledì, giovedì dalle 8 alle 20, dalle 20 alle 20 e 30, c'è un cambio sul palinsesto, un cambio che sarà definitivo per non so quanto, per ragioni proprio tecniche, lavorative. Michela, insomma, il giovedì ha delle difficoltà perché è il giorno in cui bisogna fare molti spostamenti dal punto di vista professionale e il giorno prima si devono preparare tante documentazioni per fare quello che si deve fare il giovedì, e quindi praticamente si è deciso di spostare Disordinati Informati il martedì dalle 7 alle 8 e Buongiorno un cazzo il giovedì dalle 7 alle 8. Quindi eccomi qui, dato che avevo saltato io martedì perché non c'avevo temi, per amore e solidarietà mi sono proposto, insomma, di sostituirla già da adesso, già dall'immediato, perché ovviamente, come abbiamo detto, si è trovata in difficoltà ieri. E lo faccio con la stessa intenzione che ho fatto martedì, cioè nel senso, senza argomenti. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, ci sono le cose da dire, ci sono delle cose da dire. Magari la trasmissione durerà leggermente di meno, ma insomma durerà, questo ve lo assicuro. Comunque vi ricordo, quindi riassumiamo, il martedì andrà in onda Disordinati Informati dalle 7 alle 8 con Michela De Paola e il giovedì Buongiorno un cazzo dalle 7 alle 8 con me, Simone Pizzi. L'appuntamento invece del sabato rimarrà immutato. Questa variazione significa che dobbiamo rifare ben 4 spot, quindi saranno 2 giorni intensi per rimettere tutto a regime, ma lo facciamo veramente volentieri perché è giusto, sono delle prima le priorità. Però piuttosto di portare Michela magari a rinunciare a fare una cosa che comunque le piace fare, insomma, abbiamo trovato questa soluzione che mi sembra abbastanza caruccia, tutto sommato. E oggi vorrei parlare di una cosa e ve la introduco con un brano che è bello, perché il brano è bello, anche se è di un artista che io non amo molto, e poi vi spiego anche il perché. Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova. Vabbè, questo è Giorgio Gaber, l'avete riconosciuto con la canzone Libertà. Stare sopra una Aspetta, perché poi non è neanche voglio far sentire solo questo. Un'opinione, la libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero. Ecco, insomma, non parleremo di libertà oggi, anche se c'era quella famosa puntata sulla libertà che mi ero preparato, anche grazie a tutti i vostri contributi, e che poi non si è più fatta, perché in effetti mi sono reso conto che era concettualmente più complicata di quanto i 64K potessero permettere. Quindi c'era sempre questo segnale di out of memory, out of memory. Però la farò un giorno. Diciamo, la frase che dice è partecipazione, invece di libertà noi ci inseriamo la democrazia. La democrazia è comunque un elemento, un'espressione, la massima espressione, se vogliamo, per certi versi, della libertà, dell'essere uomini liberi, di aver guadagnato questa libertà, di aver ottenuto una posizione espressione di libero pensiero e anche di partecipazione in senso attivo, no? Perché comunque partecipare all'interno della vita democratica non è soltanto un fatto di protagonismo all'interno del contesto, ma è anche vigilanza, no? Perché poi non esiste una democrazia senza una vigilanza, e chi più del popolo, no? dell'elettore in qualche maniera ha il compito e il dovere anche di vigilare all'interno della democrazia, in particolare all'interno del nostro paese, dove la democrazia è rappresentativa per costituzione. Noi eleggiamo delle persone che rappresentano noi, o blocchi di noi, o parti di noi, o agglomerati di noi all'interno di quelle che sono le istituzioni democratiche. Quindi in questo caso ovviamente parliamo di del Parlamento, no? Ad esempio, ecco, la democrazia si esprime nei tanti modi in cui si estrinseca, diciamo così. La democrazia si fa proprio con la partecipazione elettorale, e questa cosa mi ha fatto riflettere, perché forse una volta si era un po' parlato di questa cosa, a parte in OGM recentemente, ma è una cosa sulla quale io ho sempre puntato il dito e non ne sento mai parlare più di tanto. E qui parte anche un po' la Marcord. Non ho spiegato perché non sono un simpatizzante di Gabber, vabbè, poi lo dirò magari in un'altra occasione, tanto capiterà di rimetterlo. Dicevo, parte la Marcord perché io mi ricordo vabbè, io i miei ricordi che ho sono legati a quello che sono, e chi mi ascolta bene o male sa chi sono nel bene e nel male. Insomma, chi invece non lo sa avrà un motivo in più per odiarmi probabilmente. Però io mi ricordo che ai miei 18 anni, diciamo così, uno dei motivi, perlomeno magari nella mia combriccola, in quello che è, insomma, scusate, c'è la sveglia che del cellulare che giustamente dice guarda che sono passate le 7, devi da svegliare, infatti sono passate le 10 minuti, ai miei 18 anni perlomeno, tra la mia gombriccola, ma in generale comunque ascoltando, cioè, qual è la differenza oggi, se tu domandi a un ragazzino, cioè, che fa 18 anni, qual è la differenza dal giorno prima, e che quello dice beh è uguale fondamentalmente, infatti è uguale. Però all'epoca ce l'avevamo questa cosa del voto, no? Cioè, nel senso, la consideravamo, era un fatto importante, era un segno del passaggio, cioè il fatto che forse era una delle prime cose che dicevi, no? Adesso posso finalmente votare, ed era una sorta di traguardo, no? Di passaggio in avanti, di step verso il futuro, no? Verso la tua crescita. Non sei più un ragazzino, sei un uomo, perché puoi esprimere le tue considerazioni a livello politico. E questo è quello che infatti facevi, cioè nel senso, facevi le tue considerazioni a livello politico andando in cabina elettorale per la prima volta e mettendo la croce su quel benedetto simbolo che magari tu hai agoniato per tanto tempo. E io in particolare mi sono ritenuto fortunato, perché nella mia primissima votazione è stata l'ultima votazione nel quale si è potuto votare il Partito Comunista, perché quella era una fase di transizione in cui il PC divenne Partito Democratico della Sinistra, il famoso PDS, la transizione di Occhetto. Fiumi di lacrime abbiamo speso in quel congresso alla Bolognina, insomma. Quindi alla fine tutto un passaggio storico agganciato, preso quasi all'ultimo, al di là del valore che potete dare a questa cosa, era comunque un aggrapparsi proprio all'ultimo, acchiappare il treno proprio all'ultimo, cioè poter fare quella cosa che per te aveva un'importanza e poterla fare per l'ultima volta. Bastava un mese in più, un mese in meno, e quella cosa non l'avresti mai potuta fare, no? E comunque, se io vado a fare i raffronti, quando ero ragazzino io guardavo sempre le lezioni, le guardavo, mi affascinavano. Quando ero più piccolo le guardavo in un altro contesto, no? Cioè vedevo la classifica, ovviamente allora era tutto su base proporzionale, no? E quindi c'era questa enorme classifica dei partiti con le percentuali. Per me le percentuali erano i punti, era la classifica del campionato, no? E vedevo, cioè, chi ha vinto il campionato quest'anno? Ah, l'ha vinto la DC, vabbè, vince sempre la DC. Però c'era il Partito Comunista, arrivava secondo. E quindi andava in Coppa UEFA. Allora c'era solo la Coppa dei Campioni per chi vinceva lo scudetto e la Coppa UEFA. Vabbè, comunque, al di là di questa cazzata, però l'ho sempre guardato, l'ho sempre affascinato, no? Quindi vedevo. E la partecipazione in Italia negli anni 70, 80 e anche 90, anche se dagli anni 90 ha iniziato a cambiare questa cosa, e ne abbiamo parlato tante volte, anche del perché, secondo le nostre opinioni perlomeno. L'affluenza in Italia era quasi del 90%, se non addirittura superiore al 90%. E io la raffrontavo a quello che erano gli Stati Uniti, che hanno sempre fatto un gran parlare di questa cazzo di democrazia, no? Della loro democrazia, perché loro è il paese dove l'ultimo può diventare il primo e via dicendo. E gli americani non ci hanno mai avuto un'affluenza superiore al 30%, al 40%, al massimo. Quindi io mi domando, un paese così enorme, così potente, con un sistema elettorale così barocco, come abbiamo sempre detto, che è assolutamente fuori contesto, secondo me oramai è di un'anticaglia che non ha proprio senso di esistere all'interno del contesto democratico moderno, e comunque alla fine votavano il 30-35%, che significa che oltre il 70% degli americani, storicamente, non oggi, ma storicamente, non avevano neanche una consapevolezza politica, non avevano l'interesse alla partecipazione. Cioè a te non ti è mai venuto in mente, tu tizio dell'Ohio che non sei mai andato a votare, di votare, di dire la tua in qualche maniera? Poi è vero che lì, vabbè, elettori, grandi elettori, piccoli elettori, grossi elettori, insomma tutto un gran casino, però insomma c'era questa grossa differenza. Loro parlavano di democrazia e noi la democrazia in qualche maniera la facevamo, no? Poi al di là, se leviamo un po' tutto quello che c'era nel background, no? Tra servizi segreti, terrorismo e comunque anche supporto politico a determinate aree piuttosto che altre, perché l'Italia era comunque un paese strategicamente importante, però l'affluenza era alta, è sempre stata alta, no? E quando io ho cominciato a vedere che questa affluenza ha iniziato a calare, e alla fine mi faceva impressione, perché noi eravamo veramente storicamente uno dei paesi dove si andava a votare sempre di più, no? Cioè proprio dove c'era proprio la partecipazione, al di là che poi il voto in Italia era sempre abbastanza distribuito, no? Cioè nel senso, comunque c'era un 30% che votava DC, un altro 29% che votava Partito Comunista, e poi c'era praticamente tutto il resto tra tutti gli altri partiti che erano comunque importanti. Però insomma comunque il grosso era trainato da questi due partiti, no? Però c'era comunque una bella scelta, e c'era anche un'abitudine in Italia particolare che la gente di coscienza, quelli più maturi, quelli più adulti, facevano. Perché, se non so se vi è mai capitato, l'educazione del nostro senso di equilibrio democratico, che è indicato dalla Costituzione, veniva sviluppato in una maniera particolare. Cioè la maggior parte della gente, quelli che votavano Democrazia Cristiana, quelli più adulti, alla fine al Senato votavano Partito Comunista o votavano un altro partito, magari il Partito Socialista. Questo perché? Non perché erano sia democristiani che comunisti, ma perché c'era questa filosofia del riequilibrare le forze. Ovviamente la Camera dei Deputati è sempre stata più forte, no? Più importante da un certo punto di vista, perché i numeri erano più abbondanti, però avere un Senato che riequilibrava, che poteva compensare anche delle scelte magari scellerate della Camera dei Deputati, aiutava insomma a cercare di creare una compensazione. Questa era la democrazia fondamentalmente. E oggi noi vediamo comunque un'affluenza alle urne che è veramente impressionante, assolutamente impressionante, perché tu vedi che a metà della tranche elettorale magari hanno votato il 10-15% delle persone, poi magari a fine blocco delle votazioni magari poi alla fine hanno votato il 30% delle persone. Cioè siamo arrivati agli stessi numeri, pur avendo una democrazia direttamente rappresentativa e quindi non articolata a cazzi e mazzi, e insomma siamo arrivati agli stessi numeri che avevano gli americani storicamente. E questa è una cosa triste, perché poi scompensa questa cosa ha due elementi importanti. Uno è quella più banale, che possiamo definire la disaffezione della gente alla politica. Poi la disaffezione alla politica, quindi la non partecipazione, è un danno a te stesso, non è un danno alla politica, perché oggi l'immaturità e comunque la superficialità delle persone fanno di io adesso non mi incuro più questi, capito? Dio, ti ho fatto un dispetto. Ma il dispetto lo fai a te stesso, lo fai a loro, perché loro anzi gli fai un favore, te levi dai coglioni, capito? È un po' questo che la gente forse non capisce. Quindi la disaffezione, dall'altra lo sfalsamento totale in senso rappresentativo, cioè nel senso che se vota il 30% dei voti e il sindaco di Roma viene eletto con il 60% dei voti, è il 60% del 30% e tutti gli altri 70%, cioè che cosa avrebbero votato? Come sarebbe cambiato il panorama politico? Perché la gente si è allontanata e nessuno a livello istituzionale si preoccupa di ricostruire un'educazione dal punto di vista istituzionale e democratico. Ma questo insomma ne abbiamo parlato tante volte, però ecco una riflessione che volevo fare con voi, perché insomma ragazzi sta roba è importante, cioè nel senso vedete che alla fine alle elezioni comunali come Roma, ma anche a livello nazionale, non vi credete che la cosa sia tanto diversa? Insomma è un po' triste, diciamoci la verità. Ragazzi, che pezzetto che vi ho messo, eh? Questo è Luca Rossi, Yesh Soul. Non so come si pronuncia, assolutamente non mi voglio neanche sperticare per capirlo, però insomma nel database che comincia a diventare un po' più interessante, piano piano cominciano a uscire anche cose carine, bellissime, sempre queste sonorità arabo-napoletane, che io l'ho sempre trovate molto molto affascinanti. Vengo da voi perché vedo che avete scritto qualcosa. Giustamente Francesco dice non è vero, la massima libertà, cioè la massima libertà è l'anarchia, quindi mette la rossa. Sarebbe bello parlarne di questo tipo di discorso, perché qui entriamo in un contesto dove l'educazione sociale e l'evoluzione proprio umana dovrebbe avere talmente tanti presupposti che insomma, anche se invece vi ribatto, come disse il mio amico Michele Salvezza, la vera anarchia è l'ultrapotere, ossia tutte quelle persone che hanno talmente tanto denaro che il denaro non ha più significato, ma ha significato solo il potere, e in quel contesto quelle persone possono fare talmente qualsiasi cosa che vivono in un contesto definibile anarchico, proprio perché non ci sono regole, è tutto basato su un'autodeterminazione chiaramente distorta, perché l'autodeterminazione in senso assoluto è una distorsione o porta a una distorsione, proprio perché non c'è ancora questa capacità, questo senso collettività, no? Dove tutti insomma si agisce e si interagisce per il bene della propria libertà e della libertà degli altri. E vince sempre la DC, la DC praticamente è come la Juve, sì, era un po' così, io vedevo un po' così, ma io questa cosa vi racconto una cosa che non c'entra niente, però fa sorridere un pochino. E voi sapete che io sull'Amiga 500 giocavo a Kickoff, che era secondo me il più bel gioco di calcio che sia mai stato fatto, anche se molti dicono Sensible Soccer, però secondo me Kickoff stava proprio su un altro pianeta. E nelle varie versioni di Kickoff tu potevi fare le squadre e quindi il campionato, e io facevo il campionato con i nomi dei partiti: Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Liberale, Partito Socialdemocratico, Partito Repubblicano, Partito Radicale, insomma c'era anche il Movimento Sociale Italiano addirittura, che era praticamente la maglietta era nera con una fascia bianca, e lo facevo perché lo trovavo divertente, insomma. Quindi ecco, c'era questo parallelismo tra elezioni e campionato di calcio, in qualche maniera lo trovavo io. Gli americani sono ignoranti, dice Walter, è vero, storicamente non hanno mai avuto, insomma, ma è anche un po' il sistema educativo che era un po' particolare, diciamo. Poi Michela si scusa per il fatto che ovviamente c'è stato questi cambi, ma sicuramente poi dopo torneremo insomma alla cioè, nel senso, comunque so che voi l'ascolterete, tanto fondamentalmente se mettete la sveglia alle 7 per ascoltare Runtime Radio, se c'è Leo, ce ne so io, c'è Michela, più o meno insomma siete contenti uguali, immagino, no? Perché ricordiamo anche Leo Varghion il lunedì, il mercoledì e il venerdì con il suo Il Mattino Allora in podcast, in particolare la puntata del mercoledì con Libro Game, vedo che sta veramente piacendo molto, soprattutto questo Libro Game che parla dei fantasmi, e c'è il fantasma che fa e quindi insomma capite bene insomma. Poi addirittura c'è Gianluca Sanso che insomma ci è venuto a trovare anche lui, quindi salutiamo anche lui ovviamente insieme a Francesco, Michela e ovviamente Walter Sbano. Quale sistema educativo? Al massimo c'hanno i test e scelta multipla, e questo è importante questo aspetto, perché una volta, se riesco a far partecipare una persona che conosco, mi piacerebbe spiegare un po' come funziona il sistema scolastico americano, che abbiamo sicuramente intuito ovviamente anche dai film, dai telefilm, però diciamo che il sistema scolastico, quando aumentano gli step, ti permette anche una libertà incredibile nella selezione del tipo di educazione che tu vuoi fare. Questa è una cosa positiva da un punto di vista, ma negativa da un altro, perché comunque a molte persone mancheranno poi quelli che sono gli elementi generali, secondo me, di un po' tutte le materie che si studiano in un, ad un livello come le scuole superiori, ad esempio, per poi scegliere quelli che sono poi i tuoi interessi primari con i quali tu affronterai l'università, in America nello specifico il college, che anche lì ha un sistema parascolastico similare, e che non si discosta così terribilmente dalle scuole precedenti, ovviamente se non per il livello superiore di istruzione e chiaramente di preparazione. Però è un po' particolare, perché poi gli americani hanno questa cosa che mettono un po' tutto quanto, diciamo che creano un percorso scolastico che l'alunno possa costruirsi sempre, costantemente, e questo, ribadisco, è una cosa positiva ma allo stesso tempo anche una cosa negativa. Mentre il cane si è scagliato contro la finestra, non so, penso voleva buttarsi di fuori con tutto quanto il vetro, e adesso piange, giustamente, perché va bene. Allora ragazzi, voi sapete che voi, voglio parlare di una cosa di cui ha accennato ieri sera Walter, e che sicuramente parlerà, ma non so se ne parlerà, anche perché poi comunque in definitiva c'è poco da dire, perché come avrete letto su tutti quanti i giornali, alla fine della partita Lazio-Inter, che è una partita che meriterebbe una puntata a parte solo lei per tutto quello che è successo e per quanto oramai sia arrivato al ridicolo il mondo del calcio, il Bernabé, il falconiere della Lazio, colui che fa volare Olimpia praticamente, facendo il giro del campo da tutti i festeggiamenti, passa vicino a un gruppo di tifosi che gridano duce duce duce, e lui alza il braccio destro in segno di saluto fascista, e prese le attenuanti del fatto che è un portoghese e possa dire magari che lui non sapeva che cosa stava facendo, che era preso dalla cosa, e una persona che oramai è a Roma da anni, questa cosa non è giustificabile, non è accettabile, non è neanche comprensibile. E questo è il fatto, cioè il fatto che comunque collega sempre la Lazio un po' a tutto quello che sono gli elementi legati al fascismo e comunque a queste intemperanze politiche particolari, dove ovviamente la politica, da quando è entrata ovviamente in maniera particolare nelle curve, è un motivo per il quale a volte ho veramente faticato e mi sono molto isolato dal resto, magari dei tifosi, da tutte quelle persone che comunque partecipano in un certo tipo di modo e che alla fine ti fanno mettere anche in discussione un po' quello che stai facendo, perché vale la pena un po', come posso dire, screditare anche le tue idee, il tuo modo di pensare, il fastidio che provi verso certe determinate cose per il pallone? Probabilmente no, però è anche vero che subentra anche un fatto di dignità, no? Cioè, nel senso, comunque alla fine perché io devo rinunciare a una cosa che mi piace, no? Alla quale sono affezionato in qualche maniera, e per poi fare cosa? Cioè per... aspettate il secondo, eh? Niente, tutto a posto, scusate. Vabbè, comunque, al di là di questo... più quello che è successo ieri sera con Bernabé, quindi ovviamente con il tizio portoghese che fa volare Olimpia, che è stato prontamente sospeso dalla società, è un po' tutto quello che sta girando intorno al mondo Lazio, che è oramai uno scontro praticamente totale tra stampa, società e anche istituzioni calcistiche. Ed è un qualcosa che ha ragioni, che ha radici oramai decennali, anzi diciamo da 19 anni, perché tutto questo in qualche maniera, questa esasperazione di questo problema e soprattutto questo puntare il dito verso il mondo Lazio, che chiaramente è un mondo variegato come tutti quanti i mondi, non fa, cioè in realtà ha una radice, ha un'origine, c'è sempre stata, no? Però ha un'origine, perché diciamo c'è stato un periodo in cui di queste cose non se ne parlava, si faceva finta di niente e via dicendo. In realtà c'è una battaglia, e il problema è che è una battaglia silenziosa, una battaglia di cui i giornali non parlano. C'è uno scontro aperto, anche abbastanza vivace, all'interno del mondo Lazio, ed è uno scontro del quale i giornali ovviamente non parlano, perché non è quello che fa notizia, non è la cosa tra virgolette positiva che fa notizia è la cosa negativa, ma questo diciamo ci sta nei contesti, è una cosa che ci sta, e tutto questo è anche attribuibile comunque all'arrivo di Lotito nella Lazio, perché per quanto continua a dire Lotito sia stato anche vittima di luoghi comuni, leggende metropolitane, una campagna denigratoria veramente potente, veramente forte, che ha un motivo, che ha una ragione, anzi ce ne ha due addirittura di ragioni. Per quanto Lotito sia comunque un personaggio particolare, sicuramente cerca una certa accondiscendenza, cerca visibilità politica, cerca visibilità commerciale, probabilmente ha anche lui i suoi interessi, ma d'altronde chi entra nel mondo del calcio investendo, anche se poco, comunque se non ci fosse una ragione, se non quella strettamente affettiva? De Moratti, ricordiamo, ce n'è sempre stato uno e probabilmente ce ne sarà soltanto uno, forse Di Novio. Forse Di Noviola potrebbe essere accumulabile, insomma, all'ultimo, uno degli ultimi presidenti che comprava e teneva una squadra di calcio perché veramente aveva a cuore, diciamo, quella cosa, no? Ma non, con questo non significa che Lotito non abbia a cuore la Lazio, però Lotito ha creato una frattura, ha creato una rivoluzione all'interno del mondo Lazio, una rivoluzione positiva e negativa allo stesso tempo, perché ha messo dei paletti che nei primi anni di vita all'interno della Lazio gli hanno creato veramente tantissimi problemi, comprese minacce di morte, tant'è che voi sapete che Lotito va in giro scortato, cioè nel senso Lotito da 19 anni, da quando ha preso la Lazio, vive sotto scorta proprio per le costanti minacce di morte che lui ha, proprio perché lui a un certo punto, anche per esigenza politica, per tutto quello che volete, ha fatto questo tipo di comunicazione, cioè la Lazio è un'altra cosa, cioè la Lazio può appartenere a quella che è stata l'aristocrazia romana perché è nata in determinati contesti, tutto quello che vi pare, però non ha niente a che fare col fascismo e non ha niente a che fare con tutti coloro che si riconoscono nel fascismo e che quindi ovviamente sporcano, diciamo così, tra virgolette, il marchio Lazio, perché qui in questo caso stiamo parlando di marchio, con questo tipo di manifestazioni, con questo tipo di situazioni ovviamente. Che questo gli ha portato il primo scontro, uno scontro importante, perché chiaramente è stato mettersi di traverso e creare proprio una frattura con quella che è la tifoseria, quella più calda ovviamente, che non necessariamente è completamente, non è tutte le 20.000 persone che stanno dentro una curva, le 12.000 persone che stanno dentro una curva sono tutti fascisti, ma il nucleo importante, quello diciamo fondamentale, quello che poi trascina tutto, anche se negli anni le cose sono molto cambiate in positivo, grazie al cielo, sì, è quello stesso gruppo che quando ha scansato gli Eagle Supporter ha portato la politica negli stadi, da lì la politica negli stadi è entrata costantemente senza nessun problema, però chiaramente c'è sempre un capro espiatorio. Comunque questa frattura ha creato già un problema all'interno del mondo Lazio, che ha creato la prima campagna denigratoria. Il secondo elemento che ha creato nella seconda campagna denigratoria è il fatto che Lotito, nel suo entrare all'interno del mondo Lazio, ha completamente spazzato via tutte le vecchie cortigiane, tutti gli orfani dei Gragnotti che stavano lì e che ovviamente oggi non fanno altro che continuare a sputare la merda ovviamente sulla società. Questo è il contesto dove c'è appunto una battaglia vera tra tifosi e ambienti culturali e club e gruppi organizzati che non vogliono più avere a che fare con questo tipo di situazione, che è quella dei burazzisti, che è quella del duce, è quella del Sigail alla fine dell'inno nazionale, tutte cose che poi dopo, tra l'altro, in questa marmaglia di stronzate, poi alla fine c'è tutto un connubio, tutto un pastrocchio, perché cioè, metti il fascismo col nazismo e tutta una serie di cose. Ora poi gli irriducibili, che erano comunque il gruppo fondamentale, no? Del quale poi in realtà di queste cose non se ne parla molto a Roma, perché c'è anche un po', cioè nel senso fammi stare tranquillo, fammi tornare a casa tranquillo, perché poi è quello, e io lo capisco, e anche io, cioè non dovrei, secondo me, io essendo da solo, senza nessun emittente che mi protegge, senza nessuno che non ne dovrei proprio parlare di sta roba, perché è molto peggio di quanto uno possa. Però comunque gli Irriducibili si sono sciolti alla fine e hanno lasciato il posto agli SS Lazio Ultras, che alla fine sono sempre loro, soltanto che essendo cambiato molto all'interno del mondo degli Irriducibili, soprattutto con la morte di Diabolik e via dicendo, sicuramente magari hanno insomma preferito eliminare questo tipo di logo, di marchio che era legato. Anche nel bene, perché a volte insomma comunque ci sono stati anche momenti importanti, no? Cioè nel senso a livello di tifoseria nel Lazio. Però ecco, c'è questo scontro che viene vanificato, cioè questo scontro, questa lotta, questa rivoluzione, questa positiva voglia di scrollarsi di dosso certe determinate cose, che però vengono completamente vanificate ogni qualvolta che esce un video su YouTube. E poi oggi le cose ci mettono 3 secondi a diventare virali quando sono di questo tipo. Arriva il cretino che grida duce duce, e arriva il falconiere della Lazio, che è pur non essendo un dipendente diretto della Lazio, è comunque una persona che è a contratto per la Lazio, involontariamente, comprendendolo, non comprendendolo, si mette a fare una cosa in un mondo dove oggi su 10.000 tifosi 1.000 tifosi hanno il cellulare in mano, perché è così. E tutte queste cose che continuano a danneggiare, ad autodanneggiare la Lazio, vengono dall'interno, non vengono dall'esterno. Che poi Gazzetta giustamente non veda l'ora che succedano queste cose, però tutte queste cose vengono dall'interno e non lo capiscono che c'è un ambiente che vuole essere sano, andare allo stadio, far tifo e divertirsi. Invece deve vedere ogni volta di star lì a dover fare il fischio che riesca a sovrastare i bu, in modo che l'arbitro non senta i bu. Cioè, qui a questo è il livello a cui siamo arrivati, Ma io ne vedo le partite e sappiate che non è un problema che riguarda solo la Lazio. Chiaramente la Lazio in questo momento è sotto l'occhio del ciclone, ma anche giustamente, cioè nel senso non è che sto qui a fare la vittima, perché il contesto è creato dall'interno ed è uno scontro che a volte sembra arrivare a una conclusione, ma poi ci sono questi ritorni, queste reazioni che sono impressionanti. E a volte basta un video come questo, anche veramente stupido, a volte superficiale, perché ci può stare, sono persone, possono anche presi un attimo dall'enfasi, da star lì, quelli fanno duce col braccio, e lui magari risponde col braccio perché pensa. Lo posso anche scagionare a Bernabé, cioè voglio dire, che vi posso dire? Cioè, nel senso, ma non perché lo voglio, perché per me ha sbagliato, però se proprio uno dovesse andare a cercare. Ma cazzo, ma usate il cervello. Questo problema in Italia della lotta al fascismo è un problema che ci portiamo avanti da 70 anni. E oggi è un vero problema. Perché oggi, mentre che prima comunque le situazioni erano contenute, oggi sta cosa dilaga. Perché oggi il fascismo con i social diventa un fenomeno. Diventa virale, diventa... Perché poi nel video, cioè capito, questi duce, lui alza il braccio e si dice: ah, guarda che matto, tutti con te, tutti saltati di sta cazzata, no? Questo è un problema che riguarda l'Italia, ragazzi, non riguarda solo un determinato tipo d'ambiente. Noi a 70 anni di distanza stiamo ancora a combattere contro i fascisti. Ed è una cosa inconcepibile in qualsiasi altro paese del mondo. Solo da noi è così. C'è il tizio lì, non l'ho ancora visto, devo dire, il video, come si chiama? Lecio, come si chiama? Insomma, il ragazzo quello che fa i video di storia, adesso non mi viene come cazzo si chiama, ma lo scordo sempre, che ha fatto un video perché l'Italia non ha avuto la sua Norimberga. Ecco, me lo guarderò quel video, ma questa cosa, questa mentalità tipicamente italiana del taralucci il vino, del volemosi comunque bene, vabbè, famo finta di niente, non creiamo ulteriori scontri, pacifichiamo in questo modo, crea una non pacificazione. perché oggi ancora la gente è ancora incazzata per le cose che sono successe, perché non c'è mai stato un punto fermo, un punto fine, diciamo, una fine. Nessuno ha mai istituzionalizzato dicendo: ragazzi, abbiamo fatto un processo, abbiamo stabilito, questi vanno tra i cattivi, questi vanno tra i buoni. Ma non che questo alla fine abbia un valore oggettivo, ma aiuta, mette un punto, determina. E questo è il vero problema. In Italia questo processo non si è mai fatto, e facciamo ancora fatica oggi, e questa è la cosa più incredibile, a definire quali sono i partiti che vanno, o i partiti, i movimenti o le situazioni che vanno processate per apologia di fascismo, che è un reato previsto dalla Costituzione. E oggi, dopo tutto quello che è successo alla CGIL con Forza Nuova, si arriva a arrivare in Parlamento per mettere al bando, sciogliere Forza Nuova come organizzazione fascista, e nello stesso decreto ci devono stare altri movimenti, perché se no so cazzi. Questa è la mentalità italiana. Allora scegliamo Forza Nuova, però pure lì, quelli lì, i comunisti di quel centro sociale. Perché poi dopo sto decreto è bello e chiappa tutti. Chiappa le religioni, chiappa le politiche, chiappa tutto. Insomma, vabbè. Raga, è veramente drammatico che, ovviamente, per chi è laziale questa cosa si rifletta sul proprio mondo, ma è un problema che chiaramente è ancora un grosso problema a livello nazionale. The sea, who takes the brightest specimen of all the plankton that he eats. I can watch out for a week, just my mouthing capitals. What have you ever bought of me? I try to listen and compromise. Build your own way. Everyone else. Usually I think we can rule. I try to be better. I try to behave. I know it might just be too late. I try to be better. I try to be better. È indubbiamente vero, Walter, che è un tema delicato, un tema delicato che prescinde da anche dal discorso del contesto, no? Quindi del Lazio, Roma, Juve, Inter, anche se poi ricordiamo che gli ultras della Lazio sono gli stessi ultras dell'Inter, cioè né più né meno, cioè, forse quelli dell'Inter, motorino a parte, magari tendono essere un po' più intelligenti da un certo punto di vista, no? Quindi restare un po' più nell'ombra, no? Invece da noi proprio cioè io mi ricordo, vabbè, lasciamo perdere, comunque mi ricordo situazioni che veramente a volte erano a volte mi hanno fatto veramente vacillare, devo dire. Però il messaggio poi alla fine è questo, ma penso che valga in ogni contesto, in ogni situazione, che non si può identificare, per quanto ci si possano essere stati degli elementi, no? Ma se io dovessi fare il percorso della storia della Juve, o magari dell'Inter appunto, o del Verona, sai quanti elementi potrebbero vincolare il marchio al fascismo, cioè nel senso in generale, o quindi alle manifestazioni fasciste, alle intemperanze e tutto quanto. Tra l'altro io, per far capire insomma anche quanto da una parte ci sia un dibattito e dall'altra sia difficile fare un dibattito, forse anche per mancanza di coraggio e tutto quanto, in un canale YouTube di questi insomma dove praticamente oggi, sapete, no, gruppi dei tifosi si organizzano, fanno il canale YouTube che diventa una sorta di canale di news, no? Cioè nel senso, oggi funziona così, poi magari le notizie le piano a cazzo di cane, si inventano le cose o via dicendo, comunque vabbè, prendono, fanno le live la sera, perché magari soprattutto nel periodo del lockdown, adesso la cosa si è un po' più ridimensionata, a parte quando ci sono le partite, diciamo, si mettono lì e parlano di Lazio, raccontano magari se ci sono delle notizie o quello che è successo nell'arco della giornata o via dicendo, ma questo insomma penso che lo facciano con tantissime altre situazioni. E tra le mille cose che contestano allo Tito, c'è il fatto che la Lazio non c'aveva uno sponsor, mo sta settimana grazie a Dio è arrivato lo sponsor, dopo penso due anni e mezzo forse che la Lazio non aveva uno sponsor sulle maglie. E il main sponsor per una squadra di calcio è fondamentale, perché comunque porta soldi con i quali puoi fare un parte di una campagna acquisti, quindi la Lazio alla fine è stata un po' mutilata da sta cosa, no? E quindi lo Tito non vuole portare lo sponsor, perché poi sta cosa della volontà di non fare cose, no? Questo mi fa assolutamente ridere. E in uno di questi gruppi io sono intervenuto, perché a me questa cosa mi fa incazzare, no? Cioè tu pensi che ci sia un imprenditore che faccia un qualcosa e che vada contro quel suo qualche cosa per non raggiungere dei risultati, ma che senso, cioè oggettivamente, ma che senso c'ha? Ma se un risultato ti porta del denaro, perché un risultato ti porta del denaro, nel mondo del calcio non c'è niente che non ti porta un denaro, ma raggiungere un obiettivo ti porta del denaro, no? Qual è il motivo per il quale un imprenditore non dovrebbe voler arrivare a quell'obiettivo? Ma al di là di questo, io sono intervenuto in questo gruppo scrivendo: ma non è che probabilmente una multinazionale che ha a che fare con razze e culture diverse magari si scoccia dover vincolare il proprio nome a una società che è così fortemente compromessa con ambienti fascisti? Ma non perché la Lazio di per sé sia compromessa, però è per far capire un po' la... Ah, di che partito sei? È arrivato al comunista? Ah, è una provocazione, lasciamo fare, non me fa di, no, fammi sta buono uno, certo, perché cioè, ho detto, scusa, ma perché mi vuoi menare tramite YouTube, che vuoi fare, cioè nel senso, vabbè, questo è l'ambiente, no? Come diciamo, se c'è l'ignoranza, se c'è quel modo di essere, che poi il problema è proprio sta lì, cioè secondo me la bravura di un certo tipo di settore è stato nel fatto di confondere la propria identità con l'identità ovviamente dell'essere quella cosa lì, e che è un po' una stronzata, no? Diciamo così, detto in francese fra di noi, però vabbè, dobbiamo tornare, secondo me, a parlare di questa cosa, non tanto della Lazio in sé, ma di capire il fatto che a un certo punto, dopo che sono 20 anni che noi lanciamo un grido d'allarme, noi in generale, cioè noi nel senso come podcast e Michela dal 2010 a oggi lanciamo questo grido d'allarme, ma poi anche prima quando c'era più attività politica dicevamo guardate che se non si interviene, se non si fa rispettare la legge, tutti questi gruppi si moltiplicheranno, usciranno fuori come funghi o si espanderanno ancora peggio. Ed è comunque un messaggio che arriva a livello internazionale nei paesi più importanti, dove si vede che c'è, in Italia ci sono queste realtà che sono importanti, cominciano ad avere un peso. Poi chiaramente nell'ultima tornata elettorale le cose sono un po' cambiate, un po' l'esagerazione di Forza Nuova ha sicuramente si ritorcerà sicuramente contro, perché chiaramente poi escono fuori i piani eversivi, cose, ma queste sono cose che in Italia sono sempre state, e bisognerebbe tornare a fare un dibattito su questo con l'onestà. Ma qui l'onestà, quando c'è in mezzo la politica, oramai è peggio del calcio, non ci sta. Perché se Salvini mi dice che il fascismo appartiene ai libri di storia, dice una cazzata, e lo sa che dice una cazzata, perché a lui fa comodo dire quella cazzata, ovviamente. Beh, però vediamo insomma quello che succederà. Va bene ragazzi, intanto state a scrivere in chat, ma sapete che se parlo non leggo la chat, anche perché non so per quale ragione, presa dalla trans del dialogo, ho guardato fissamente la lampadina, adesso ho un buco nero negli occhi e quindi non vi cago, però vi voglio bene lo stesso, lo sapete insomma, no? Va bene, con un po' di anticipo io direi che se ne potemo andare. E anche oggi se la siamo portata a casa, e pure oggi se la siamo levata dai coglioni, come dicono. E quindi prima di augurarvi buongiorno definitivamente per il resto della giornata, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla chat: Francesco, Gianluca, Walter, Leo Vargon, Michela e basta, mi pare. Poi gli altri stanno tutti a dormire, giustamente. Ringrazio tutti coloro che ovviamente continuano a sostenere i nostri progetti. Vi ricordo che noi siamo Runtime Radio e che ci trovate su www.runtimeradio.it, dove cliccando il pulsante anche io trovate sicuramente il sistema per poter contribuire e sostenere il nostro progetto dal punto di vista economico. Non è un obbligo, lo sapete, noi continueremo a farlo, ma se lo fate ovviamente aiutate la radio a crescere da questo punto di vista. E quanto è cresciuta Runtime Radio negli ultimi 12 mesi ve lo dicono le 12 ore di live giornaliere, le 12 ore di live settimanali, scusate, mi ho fatto prendere proprio dalla tracotanza quasi, che ovviamente vi proponiamo e continueremo a proporvi costantemente. Vi ricordo che questa sera alle ore 20 fino alle 20:30 ci sarà sempre Walter Sbano con le orazioni della sera, e che alle ore 21:30 c'è Quando eravamo futuro, torneremo a parlare della scuola con la seconda parte della puntata scorsa. Vi ricordo invece che noi come Book ci ritroviamo giovedì prossimo dalle 7 alle 8 e che Disordinati Informati invece sarà sempre definitivamente il martedì dalle 7 alle 8 e il sabato dalle 8 e mezza alle 9 e mezza. Detto questo, io ringrazio tutti quanti per aver partecipato e spero insomma che sia stata interessante come tipo di puntata, e soprattutto spero che abbia aperto un dibattito, perché vedo insomma una certa vivacità nella chat. Mi raccomando, sia una buona giornata, sia l'inizio di un buon fine settimana. Buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno a un cazzo.